Così, volendo andare da Madame Verdurin, avevo incontrato il signor di Charlus, e certamente non l'avrei trovato, come un tempo, da lei. La loro rottura non aveva fatto che aggravarsi, e Madame Verdurin si serviva persino degli avvenimenti attuali per gettare su di lui un ulteriore discredito. Dopo aver detto a lungo che lo trovava logoro, finito, più fuori moda nelle sue pretese d'audacia, dei peggiori pompieri, riassumeva adesso questa condanna ed eccitava ogni fantasia al disgusto per lui, affermando che era anteguerra. Secondo il piccolo clan, la guerra aveva messo fra il barone e il presente una frattura che lo relegava nel più morto dei passati. D'altra parte, rivolgendosi in questo soprattutto al mondo politico, che era meno informato, lo dipingeva come altrettanto passato, altrettanto fuori dal punto di vista mondano che da quello del valore intellettuale. «Non vede nessuno, nessuno lo riceve», diceva a Madame Bontemps, che non le era difficile convincere. Nelle sue parole c'era d'altronde del vero. La posizione del signor di Charlus era cambiata. Curandosi sempre meno della mondanità, avendo litigato per il suo carattere bizzoso e non degnandosi, per consapevolezza del suo valore sociale, di riconciliarsi con la maggior parte delle persone che costituivano il fior fiore della società, viveva in un relativo isolamento che non era motivato, come quello in cui era morta Madame de Viparisi, dall'ostracismo dell'aristocrazia, ma che agli occhi del pubblico sembrava peggiore per due ragioni. La cattiva reputazione di Charlus, ormai conosciuta, induceva la gente poco informata a credere che si astenessero per questo motivo dal frequentarlo le persone che era lui a rifiutarsi di frequentare. E in tal modo, ciò che era effetto del suo umore a trabigliare sembrava esserlo del disprezzo delle persone contro cui esso si esercitava. Inoltre, Madame de Villeparisi aveva avuto un grande baluardo: la famiglia. Il signor di Charlus, invece, aveva accumulato con essa disaccordi su disaccordi. Del resto, gli era sempre sembrata, soprattutto dal lato Vieux Faubourg, dal lato Courvoisier, priva di interesse. E non sospettava, lui che aveva fatto verso l'arte, in opposizione ai Courvoisier, sortite così audaci, che a rivestire in lui il maggior interesse agli occhi, per esempio, di un Bergotte, sarebbe stata proprio la sua parentela con tutto quel Vieux Faubourg, la possibilità di farsi descrivere la vita quasi provinciale condotta dalle sue cugine fra Rue de la Chaise, Place du Palais Bourbon e Rue Garancier. Poi, assumendo un altro punto di vista meno trascendente e più pratico, Madame Verdurin affettava di credere che Charlus non fosse francese. «Qual è esattamente la sua nazionalità? Non è che sia austriaco?» chiedeva innocentemente il signor Verdurin. «Ma no, per niente», rispondeva la contessa Molé, il cui primo impulso obbediva più al buon senso che al rancore. «Ah già, è prussiano», aggiungeva la padrona. «Ve lo dico io, lo so. Ce l'ha ripetuto a sazietà che era membro ereditario della Camera dei Signori di Prussia e d'Hochschlaucht. Eppure la regina di Napoli mi aveva detto: sapete bene che è un'orrenda spia, quella», esclamava Madame Verdurin, non dimentica dell'atteggiamento che la deposta sovrana aveva avuto una sera in casa sua. «Lo so in modo preciso. Non viveva che di questo. Se avessimo un governo più energico, robaccia simile dovrebbe essere tutta in un campo di concentramento. Via, via, fareste comunque meglio a non riceverla, quella bella gente. So che il ministro degli interni li tiene d'occhio. La vostra casa finirebbe sotto controllo. Niente mi toglierà dalla testa che per 2 anni Charlus non ha smesso di spiare in casa mia». E pensando, probabilmente, che si potesse nutrire qualche dubbio sull'interesse del governo tedesco ad essere minuziosamente relazionato sull'organizzazione del piccolo clan, Madame Verdurin, col tono dolce e perspicace di chi sa che il valore di quanto dice apparirà ancora più prezioso se non alza la voce per dirlo, A mio marito, vi dirò, l'ho detto sin dal primo giorno. Non mi convince il modo in cui quell'uomo si è introdotto in casa mia. C'è qualcosa di losco. Avevamo una proprietà in fondo a una baia, in un punto molto elevato. Sicuramente era incaricato dai tedeschi di preparare lì una base per i loro sottomarini. C'erano cose di cui mi stupivo e che adesso capisco. All'inizio, per esempio, non voleva mai venire in treno assieme agli altri abitué. Io molto gentilmente gli avevo offerto una camera nel castello. Ebbene, lui aveva preferito sistemarsi a Donsier, dove c'era un gran numero di militari. Tutto questo sapeva di spionaggio, lontano un miglio. Quanto alla prima delle accuse rivolte contro il barone di Charlus, quella d'esser passato di moda, le persone di mondo davano fin troppo facilmente ragione a Madame Verdurin. Erano in effetti degli ingrati, perché il signor di Charlus era in qualche modo il loro poeta, colui che aveva saputo estrarre dalla mondanità in cui erano immersi una sorta di poesia, dove entravano un po' di storia e di bellezza e un po' di pittoresco, di comico, di frivola eleganza. Ma le persone di mondo, incapaci di capire tale poesia, non ne vedevano alcuna nella propria vita. La cercavano altrove e mettevano infinitamente al di sopra del signor di Charlus uomini che gli erano mille volte inferiori, ma che avevano la pretesa di disprezzare il gran mondo e professavano in compenso teorie di sociologia ed economia politica. Charlus si estasiava nel raccontare certe battute involontariamente tipiche e nel descrivere gli abiti sapientemente graziosi della duchessa di Montmorency, parlandone come di una donna sublime, il che lo faceva considerare una sorta di imbecille, da donne di mondo, le quali, convinte che la duchessa di Montmorency fosse una sciocca senza interesse e che i vestiti sono fatti per essere portati, ma con l'aria di non prestarvi alcuna attenzione, si precipitavano, più intelligenti, alla Sorbona o alla Camera dei Deputati, se doveva parlare de Chanel. In breve, le persone di mondo si erano disinfatuate del signor di Charlus, non per aver capito troppo a fondo, ma per non avere mai minimamente capito il suo raro valore intellettuale. Lo si giudicava anteguerra, fuori moda, perché i più incapaci di valutare i meriti sono quelli che, per classificarli, ricorrono più spesso al criterio della moda. Non hanno conosciuto a fondo, anzi nemmeno sfiorato, gli uomini di valore che c'erano in una generazione. E adesso bisogna condannarli, tutti in blocco, perché ormai si profila l'etichetta di una generazione nuova che non verrà capita più della precedente. Quanto alla seconda accusa, quella di germanismo, lo spirito moderato delle persone di mondo le induceva a rifiutarla, ma essa aveva trovato un interprete instancabile e particolarmente crudele in Morel, il quale, avendo saputo conservare nei giornali e persino in società il posto che il signor di Charlus, entrambe le volte con uguale fatica, era riuscito a procurargli, ma non poi a fargli perdere, lo perseguitava con un odio tanto più colpevole in quanto, di qualsiasi natura fossero stati esattamente i suoi rapporti col barone, Morel ne aveva conosciuto ciò che egli nascondeva a tanti, la sua profonda bontà. Con il violinista, Charlus era stato talmente generoso, talmente delicato, era stato così scrupoloso nel non mancargli di parola, che l'idea di lui, che Charlie, lasciandolo, s'era portato con sé, non era assolutamente quella d'un uomo vizioso. Al massimo considerava il vizio del barone come una malattia, ma dell'uomo di idee più elevate che avesse mai conosciuto, un uomo d'una sensibilità straordinaria, una specie di santo. Era così lungi dal negarlo che anche dopo aver rotto con lui, parlando con certi genitori, diceva sinceramente: «Potete affidargli vostro figlio, non può avere su di lui che un'ottima influenza». Così, quando con i suoi articoli cercava di farlo soffrire, ciò di cui dentro di sé si faceva beffe non era il suo vizio, era la sua virtù. Un po' prima della guerra, alcuni articoletti, trasparenti per i cosiddetti iniziati, avevano cominciato a offendere nel peggiore dei modi il signor di Charlus. Di uno, intitolato Le disavventure d'una damazza in U, ovvero vecchiaia d'una baronessa. Madame Verdurin aveva acquistato 50 esemplari per poterlo prestare alle sue conoscenze, e il signor Verdurin, dichiarando che lo stesso Voltaire non scriveva meglio, ne dava lettura ad alta voce. Con la guerra il tono era cambiato. Oggetto di denuncia non era più soltanto l'inversione del barone, ma anche la sua pretesa nazionalità tedesca. Frau Bosch, Frau van den Bosch erano i soprannomi abituali del signor di Charlus. Un brano di genere poetico portava questo titolo, preso da certe arie di danza in Beethoven, Una Allemanda. Infine, due novelle, Zio d'America e Zia di Francoforte e Vento in poppa, diffuse in bozze nel piccolo clan, avevano mandato in estasi persino Brichot, che aveva esclamato «Purché l'altissima e onnipotente Madonna Censura non ci metta lo zampino!» Gli articoli in sé erano più fini di quei titoli ridicoli. Lo stile era derivato da Bergotte, ma in un modo al quale, forse, io solo ero sensibile. Ed ecco perché. Gli scritti di Bergotte non avevano esercitato alcun influsso su Morel. La fecondazione era avvenuta in modo affatto particolare e così raro che solo per questo ne riferisco qui. Ho indicato a suo tempo la maniera così speciale di scegliere le parole, di pronunciarle, che Bergotte aveva parlando. Morel, che lo aveva incontrato per molto tempo dai Saint-Lû, ne aveva fatto allora delle imitazioni in cui contraffaceva perfettamente la sua voce, usando le stesse parole che lui avrebbe usate. E adesso, per scrivere, Morel trascriveva delle conversazioni alla Bergotte, ma senza sottoporle a quella trasformazione che ne avrebbe fatto del Bergotte scritto. Siccome poche persone avevano conversato con Bergotte, nessuno ne riconosceva il tono, che differiva dallo stile. Questa fecondazione orale è così rara che ho voluto farne cenno. Essa non produce d'altronde che fiori sterili. Morel, che era all'ufficio stampa, trovava d'altronde, poiché il suo sangue francese gli ribolliva nelle vene come il succo dei vigneti di Combray, che stare in un ufficio durante la guerra fosse troppo poco. E finì con l'arruolarsi, sebbene Madame Verdurin facesse di tutto per persuaderlo a non lasciare Parigi. Certo, era indignata che il signor di Cambremer, alla sua età, fosse in uno stato maggiore. Lei, che di qualsiasi maschio non andasse a farle visita, diceva «Dove ha trovato ancora modo di nascondersi quello?» E se la si informava che quello era in prima linea sin dal primo giorno, replicava senza scrupolo di mentire o forse per abitudine di ingannarsi, ma neanche per sogno. Non si è mosso da Parigi, non fa niente di più pericoloso che portare a spasso qualche ministro, ve lo dico io, ne rispondo, lo so da qualcuno che l'ha visto. Ma per i fedeli non era la stessa cosa. Non voleva lasciarli partire, considerando la guerra alla stregua d'una grande noiosa che li induceva a mollare. Così faceva tutti i passi perché rimanessero, e questo le dava il doppio piacere di averli a pranzo da lei, e quando non erano ancora arrivati, o se n'erano già andati, di biasimare la loro ignavia. Ma bisognava che il fedele si prestasse all'imboscamento, e la padrona si affliggeva vedendo Morel recalcitrare. Così gli aveva detto, a lungo e invano, «Ma come, voi in quell'ufficio servite, e più che al fronte! L'importante è essere utile, far veramente parte della guerra, essere di quelli. Ci sono quelli e ci sono gli imboscati. Ebbene, voi siete di quelli, state tranquillo, tutti lo sanno, nessuno può condannarvi». Allo stesso modo, in circostanze diverse, quando pure gli uomini non erano così rari e lei non era costretta, come ora, a ricevere soprattutto donne, se uno di loro perdeva la madre, Madame Verdurin non esitava a persuaderlo che avrebbe potuto continuare senza inconvenienti a frequentare casa sua. Il dolore si porta nel cuore. Se voleste andare a un ballo, lei non ne dava mai. Sarei la prima a sconsigliarvelo, ma qui, ai nostri piccoli mercoledì o in un palco, nessuno se ne stupirà. Lo si sa bene quanto siete addolorato. Adesso gli uomini erano più rari, i lutti più frequenti. Né c'era bisogno dei secondi per impedire ai primi d'andare in società. Bastava la guerra. Madame Verdurin s'aggrappava ai superstiti. Cercava di convincerli che erano più utili alla Francia restando a Parigi, come un tempo aveva giurato che il defunto sarebbe stato più felice di vederli distrarsi. Malgrado tutto, aveva pochi uomini. Qualche volta rimpiangeva forse d'aver consumato con il signor di Charlus una rottura a cui non c'era rimedio. Ma se il signor di Charlus e Madame Verdurin non si frequentavano più, non per questo non continuavano. Madame Verdurin a ricevere, il signor di Charlus a cercare i suoi piaceri come se niente fosse cambiato, con qualche piccola differenza, senza molta importanza. In casa Verdurin, per esempio, Cottard assisteva adesso ai ricevimenti in un uniforme da colonnello dell'Île du Rêve, alquanto simile a quella d'un ammiraglio haitiano, sul cui drappo un largo nastro azzurro cielo ricordava quello dei figli di Maria. Il signor di Charlus, trovandosi in una città da cui erano spariti gli uomini fatti, verso i quali si erano indirizzati fino a quel momento i suoi gusti, faceva come certi francesi, amatori di donne in Francia e residenti in colonia. Aveva dapprima, per necessità, preso l'abitudine e poi il gusto dei ragazzini.